Effetto neve. Effetto neve con Massimo Discenza. E con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in redazione. Buon pomeriggio, amici sportivi, le 16:31 minuti. Buon pomeriggio a tutti. Oggi una giornata un po' particolare perché domenica 6 marzo. La nostra scelta non è particolarmente originale, però visto che siamo a 2 giorni dall'8 marzo abbiamo voluto dedicare la nostra puntata di Effetto Neve al mondo delle donne, insomma in particolare agli sport invernali declinati al femminile. Ecco perché ho chiamato in aiuto, in soccorso, un collega molto molto bravo che gli ascoltatori di Effetto Neve hanno imparato a conoscere nei numeri precedenti, una persona di grande esperienza e capacità, insomma, che ci aiuterà anche a capire meglio come si sta muovendo la Coppa del Mondo femminile in queste settimane, in questi mesi, visto che andiamo verso le finali. Un saluto a Gianmario Bonzi, commentatore per Eurosport della Coppa del Mondo di sci femminile. Ciao, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto anche ad Elisa Calcamuggi, inviata di Sky Sport. Elisa, per te non ci sono più aggettivi, visto che ormai nelle 6 puntate di Effetto Neve le ho esauriti. Ti do soltanto il benvenuto e un abbraccio. Ciao Elisa. Buon pomeriggio a tutti. Allora, partiamo da te Elisa, visto che tu sei un po' la nostra signora dei numeri e ci aggiorni su quello che accade sulle piste della Coppa del Mondo. Abbiamo detto oggi focus per quanto riguarda le donne, in un minuto la situazione degli uomini. Oggi c'era lo speciale di Kranjska-Gora, com'è andata? Lo speciale di Kranjska-Gora ci ha fatto sognare alla prima manche, perché Manfred Mölgl era secondo e Christian De Ville era quinto, quindi speravamo davvero che uno dei due riuscisse a salire sul podio. Invece nella seconda manche purtroppo la situazione si è ribaltata, un tracciato molto difficile, angolato e stretto, nel quale hanno fatto difficoltà entrambi. Manfred Mölgl ha poi chiuso quinto senza commettere gravi errori, ma accumulando ritardo soprattutto nella prima parte del tracciato, mentre invece Christian De Ville ha fatto un grave errore, si è inclinato, è scivolato sulla neve, è riuscito a ritornare in pista, a rimettersi in carreggiata, però purtroppo ha chiuso al 9° posto, quindi c'era un po' di delusione, entrambi scuotevano la testa al traguardo, molto molto delusi rispetto a quanto fatto in pista durante la prima parte di gara. Ha vinto Mario Matt, che insomma sta ritrovando in questa seconda parte di stagione, ha vinto anche lo scorso slalom, ha ritrovato un po' se stesso, da tanti anni che non riusciva a salire sul podio di Coppa del Mondo, adesso è 2 slalom di seguito che vince lui, quindi bene per lui, bene per il secondo classificato, un giovanissimo Nolan Cast, classe 1989, uno statunitense, quindi un volto nuovo, un po' come è accaduto ieri anche nel gigante, dove il francese Alexis Pinturo ha chiuso al secondo posto, una promessa del gigante francese, quindi insomma 2 volti nuovi per quello che riguarda il settore maschile in questo fine settimana. Non è una notizia purtroppo l'ennesima delusione firmata Razzoli, che si è fermato nella prima manche, ma avremo modo e tempo poi nelle prossime puntate di Effetto Neve di tornare ad approfondire l'argomento Razzoli. Invece le donne erano impegnate nella chiusura della 3 giorni di Tarvisio, oggi c'era un super gigante e continua il duello in vetta alla Coppa del Mondo. Com'è andata oggi Elisa? Ma oggi diciamo che continua il duello per la rincorsa alla Coppa Generale con Maria Risch e Lindsay Vonn, che cercano di accumulare punti. Diciamo che il weekend di Tarvisio è stato il weekend della Vonn, che in 3 giorni ha agguantato le 3 coppette di specialità. Ha iniziato con la combinata, poi ha preso quella di discesa, ha chiuso oggi prendendo quella di Super G. La prima volta forse che in 3 giorni di gara nella stessa località, 2 settimane prima che si concluda la Coppa del Mondo, un atleta riesca a conquistare 3 coppette di specialità. Non è una novità, perché queste coppette appartenevano alla Vonn anche la scorsa stagione, come la Coppa Generale. Quello che preoccupa secondo me è quello che sta succedendo a Maria Risch, che si vede questa avversaria che continua a divorare punti su punti, le sta arrivando sempre più vicina. È vero che il prossimo weekend è un weekend di gare tecniche, di slalom e di gigante, dove la Vonn ha più difficoltà rispetto alla Risch, però poi di nuovo nella settimana di chiusura all'Enseraide, secondo me la Vonn ha i numeri e soprattutto il carattere per riuscire ad agguantare nuovamente la Coppa Generale. Credo che forse Gianmario possa raccontarci qualche cosa di più, visto che tutto l'anno che anche lui racconta le imprese della statunitense. Sì, infatti io a Gianmario volevo chiedere questo, proprio per quanto riguarda la Vonn. Secondo me la sua grandezza in questo momento è anche quella di essersi ripresa bene dalla grande delusione di Garmisch, no? Aver fallito o quasi il grande appuntamento stagionale con i mondiali. Lei si è scrollata dalle spalle questa delusione ed è ripartita vincendo appunto quelle che voi del settore chiamate coppette, ma io considero sempre delle coppe del mondo di specialità, ma sono coppe del mondo, magari prenderne una, caro Giamare. No, cioè è stata molto brava, molto abile in questo lavoro. Si è dimostrato, direi, ancora una volta che la sua forza è soprattutto nella testa. Ha preso 100 punti in 3 gare a Maria Risce in questo lungo weekend di Tarvisio e soprattutto ha messo pressione alla rivale di Garmisch-Partenkirchen. Adesso sarà veramente interessante vedere come si svilupperanno le ultime gare, anche perché per la prima volta Maria Risce arriva al comando. Dunque, lo scorso anno, per esempio, nelle finali di Garmisch rimontò dei punti, arrivò lì vicino a Risce, però non aveva nulla da perdere perché era dietro. Adesso è davanti e dunque sarà interessante vedere come sopporterà questa pressione. In ogni caso è in testa dall'inizio della stagione, secondo me comunque ha vinto una gara per un centesimo per esempio ad Ore, dovrebbe essere il suo anno. E ci sono 4 gare tecniche rispetto a 2 veloci, quindi se dovessi sbilanciarmi io direi ancora la Risce, però sarà una lotta fino all'ultima porta dello slalom di Lanzerheide. Quindi 50-50, insomma, i nostri esperti si dividono per quanto riguarda l'esito di questa Coppa del Mondo. Due personaggi che come sono messi, diciamo così, anche dal punto di vista del rapporto personale, Lavon e la Risce, si amano, si odiano, si sopportano, sono amiche, insomma, che cosa emerge, cosa trapela dal circus dello sci, Gianmario? Beh, quello che si sa è che sono molto amiche, esatto. Bisognerebbe capire se fino a che punto è vero che sono molto amiche. Effettivamente si rispettano l'una con l'altra, si abbracciano ogni volta che vince l'una o l'altra, però non sono mai state così vicine o lontane a seconda del punto di vista da cui la vediamo. Di fatto c'è questa amicizia che è diffusa, però io non sono così sicuro che siano proprio così amiche. Adesso vedremo, ne capiremo di più da qui fino alla fine della stagione. Elisa, è vero che la Vonne è un po' più, tra virgolette, iena, cioè più determinata, forse anche più cattiva, più grintosa, e invece la Risce è un po' più tranquilla nell'approccio? Secondo me sì, anche perché la Von è davvero un atleta a 360 gradi, lei è una macchina da guerra, diciamo così, non solo in pista ma anche per tutto quello che riguarda l'atteggiamento fuori, a partire da chi la gestisce dal punto di vista del marketing, della pubblicità. Ogni gesto che lei fa è assolutamente calcolato, e anche per questo che in questi baci e abbracci che si vedono nel parterre della gara dopo che la competizione è finita si legge anche qualcosa che non è così pulito, così, di questa amicizia profonda della quale si parla. Ma lì ci sono le telecamere, Elisa, ci sono le telecamere. Esatto, per quello che dico, è anche una bella storia. La Risce la invita sempre a Natale a casa sua, le fotografie tutte insieme in famiglia. Adesso la Risce si sposa quest'anno a fine stagione, la Von sarà presente al matrimonio, hanno anche mandato in onda delle immagini loro due che fanno shopping in alcune situazioni tipo a St. Moritz eccetera. Quindi diciamo il messaggio che vuole passare è quello, non si riesce a capire fino a che punto sia costruito oppure no, soprattutto da parte della Von, se vogliamo essere un po' cattivi. Von Risce, Risce Von, insomma, da questo duello non si esce e non è certo il primo anno. Possibilità, non ovviamente in questa stagione, ma nei prossimi anni, di inserimenti in questo duello al vertice, Gianmario, ne vedi? Oppure secondo te loro due, anche per una questione anagrafica, sono destinate a gestirsi la Coppa del Mondo di sci femminile ancora a lungo? Dunque, sono entrambe dell'84, secondo me ancora per un paio di stagioni mi sa che assisteremo a questo duello. Una possibilità c'è, ed è quella che riguarda Tina Mazze, a patto che sia quella dei mondiali e di fine stagione, cioè di questo periodo. Allora sì, cioè per contrastare Risce e Von devi vincere o andare praticamente sempre sul podio, e lei lo sta facendo adesso, però quest'anno ha iniziato molto male la stagione, pur con velleità da Coppa del Mondo, però la stagione era iniziata in maniera molto più difficile per lei. Se è questa tutto l'anno, allora anche lei si può inserire. Poi ci sono nomi più giovani, però quelli di Fenninger per esempio e Rebensburg, ma qui secondo me dovremmo aspettare ancora 2-3 stagioni. L'unico vero nome possibile per me è quello di Tina Mazze, e poi noi speriamo più in là con gli anni magari di vedere anche un paio di giovani italiani, ma dovremmo aspettare ancora un po' secondo me. Ottimismo insomma a lunga scadenza, a lunga gittata, quello di Gianmario per quanto riguarda il possibile inserimento di un italiano in una ipotetica corsa alla coppona, visto che la coppa di specialità le chiamiamo coppette. Elisa, veniamo un po' al discorso italiane, no? Perché insomma siamo anche arrivati a un momento della stagione che ci possiamo permettere qualche bilancio. Com'è andata questa stagione per quanto riguarda lo sci al femminile? Più luce o più ombre secondo te? Ma difficile dirlo. Io credo che comunque sia, per quello che riguarda le discipline veloci, è stata una stagione difficile. È arrivato un nuovo allenatore, Planker, che ha fatto molto bene, ha cercato di recuperare una Elena Fanchini che su un pendio come quello di Tarvisio, per esempio, che si adatta alle sue caratteristiche di scivolatrice, è ritornata a fare le migliori, ha fatto un'ottima stagione in discesa libera, per cui è contenta anche lei di essere fra le migliori 15 al mondo e di averlo confermato tutto l'anno. Sua sorella Nadia, che è la velocista di punta, purtroppo è ferma perché è stata molto sfortunata con le sue ginocchia delicate che continuano ad essere operate, perché i suoi crociati hanno già subito 3-4 interventi, per cui c'è una situazione di infortuni che ritroviamo anche per quello che riguarda le specialità tecniche. La nostra Denise Carbon ha subito quest'anno per l'ennesima volta un intervento al ginocchio e a fine stagione dovrà farne un altro perché non è del tutto guarita. Lei avrebbe potuto essere molto più protagonista in slalom giganti di quello che è riuscita a fare. Il suo quarto posto ai mondiali è assolutamente una medaglia. Abbiamo Manuela Mölk, che comunque ha fatto bene ai mondiali con i due sesti posti. È chiaro, è dispiaciuta di non aver avuto la medaglia, ma in stagione ha fatto anche due podi. Abbiamo Federica Brignone, che oltre ad averci regalato la medaglia ai mondiali si è confermata un atleta di talento anche in Coppa del Mondo, in gigante, e soprattutto ha cominciato a gareggiare anche in altre discipline, per cui c'è una nuova Elena Curtoni che ha fatto benissimo ai mondiali e sta, diciamo che da quando l'hanno fatta debuttare in Coppa del Mondo hanno poi continuato a tenerla ed è sempre riuscita a racimolare dei punti. Quindi secondo me c'è comunque qualcosa di positivo. È chiaro che è difficile, le avversarie ci sono, mettiamo Vonerich se vogliamo su un altro pianeta, tutto il resto forse è fattibile e ci sono delle situazioni assolutamente recuperabili. Credo che anche Gianmario sia d'accordo. Assolutamente d'accordo. L'aspetto secondo me negativo riguarda il fatto che non vinciamo in Coppa del Mondo con le donne dal dicembre 2008, Super G, Nadia Fanchini, Lake Louise, comincia a essere tanto. L'aspetto positivo riguarda le giovani, l'abbiamo già detto altre volte, il fatto che fanno tutte le specialità e che sono del 90 o del 91, e ce n'è un'altra che sta per arrivare perché ha fatto il posto fisso in gigante e forse lo farà anche in Super G e Super Combinata, è un'altra tesina, si chiama Lisa Magdalena Agerer. Quindi abbiamo praticamente quattro ragazze del 90 e 91 che ci fanno ben sperare. Certamente c'è da dire che la nostra migliore atleta non l'abbiamo avuta, che è Nadia Fanchini, e questo è un punto che bisogna considerare. Tornerà quella di qualche stagione fa, secondo te, dopo l'operazione? Secondo me è possibile, perché la Ospa è tornata a buoni livelli, ma soprattutto la Rish, che ha perso due stagioni per infortuni alle ginocchia, adesso è qui che si gioca una Coppa del Mondo. Ci ha messo due anni a tornare ad altissimi livelli, perché già nel 2004 la Rish era fortissima a 20 anni. Quindi io mi auguro davvero che possa tornare, secondo me è possibile, certo ci sono di mezzo 5 operazioni alle ginocchia. Senti, facciamo un piccolissimo gioco sia con Elisa che con Gianmario. Siamo qui a sognare, sogniamo dove possono arrivare secondo voi sia la Curtoni che la Brignone, qual è il punto d'arrivo delle loro carriere, cosa possiamo immaginare in questo momento ovviamente? Gianmario. Ma secondo me domanda complicata, perché bisogna avere la sfera di cristallo ben oliata, esatto, ben sistemata, eccetera. Voglio dire, che margini di miglioramento hanno? Secondo me questo è notevoli. Il tifoso se lo chiede. Notevoli, secondo me. E per quanto riguarda Federica, l'ho detto anche di recente quando è venuta ospite a Eurosport, parlando proprio del fatto che voglia fare la polivalente, lei deve puntare tantissimo sul gigante ma anche sullo slalom e Super G, perché in slalom dicono gli allenatori che va benissimo, in Super G quest'anno ha fatto punti, quindi margini enormi. Ovviamente il primo obiettivo secondo me deve essere la prima vittoria in Coppa del Mondo per entrambe, certo. Elena Curtoni è un fenomeno da tantissimi anni, cioè a livello giovanile ha vinto tutto in Italia, ha fatto benissimo in Coppa Europa, ha vinto un mondiale junior, un oro mondiale in Super G di recente, certo, a Crans-Montana. Ed è davvero forse la prima grande polivalente che abbiamo, posto che Deborah Compagnoni non l'ha fatto per i motivi che sappiamo, per gli infortuni. E quindi anche lei ha margini enormi. E probabilmente davvero è la prima polivalente vera che abbiamo a livello femminile, però non possiamo dire dove potrà arrivare perché è troppo presto. Soprattutto nelle discipline veloci ci vuole tempo per crescere, per conoscere le piste, mentre magari in gigante, come ha dimostrato Federica Brignone, si può arrivare subito al top. Nelle discipline veloci bisogna avere un po' di pazienza, però i margini sono enormi, sicuramente. Poi non abbiamo mai vinto la Coppa del Mondo femminile, questo fammelo dire, esatto, con un italiano. Qualcosa dovrà succedere. Esatto, è vero, per la legge dei grandi numeri. Elisa, stessa domanda anche per te, secondo te dove possono arrivare Curtoni Io e Brignone? Facilità spezzare i compiti, dividerei proprio le situazioni e direi magari a Federica Brignone di concentrarsi soprattutto sul gigante slalom, dove sappiamo che può far bene e, come ha detto Gianmario, sappiamo anche che in allenamento anche in slalom riesce a essere molto competitiva. Invece Elena Curtoni è forse più adatta a quello che riguarda la velocità, ha delle doti di scivolatrice, riesce a condurre le curve ad elevata velocità, infatti viene anche paragonata fisicamente alla Von, ed effettivamente, guardando la struttura fisica di queste due ragazze, si assomigliano, per cui se Elena riuscisse davvero a crescere e ad arrivare, non dico a tirare le curve che tira Lindsay Von, perché è veramente una fuoriclasse, però ad avvicinarsi a quel gesto tecnico che rimane la caratteristica che rende la Von imbattibile, perché lei scia con degli sci che usano i ragazzi, ha delle durezze che solo lei riesce a gestire in campo femminile, quindi se Elena riuscisse a crescere in questa direzione, che è quella che poi permette alla Von di fare la differenza, e se Federica continuasse in quello che sono le discipline tecniche, con qualche, magari, per carità, ci va anche il super gigante, ci va anche un po' di velocità, però secondo me è forse meglio dividere loro i compiti, perché anche lo stesso Inerhofer, che in questo momento sta andando benissimo, nell'anno in cui poi ha deciso di provare a competere in tutte quante le discipline, poi si è ritrovato con dei guai fisici da seguire e da curare, quindi forse secondo me per un primo approccio è il caso di continuare a concentrarsi nelle loro specialità, poi più avanti magari di vedere cosa succede, però io rimarrei un po' più settoriale. Vedremo se le loro carriere andranno in questa direzione. Nel 16:47 un attimo di pausa per il traffico, poi torniamo insieme per la seconda parte di Effetto Neve. Effetto Neve. Effetto Neve. Le 16:48 minuti, ancora buon pomeriggio amici di Radio 24, seconda parte di questa puntata interamente dedicata alle donne. Siamo a due giorni dall'8 marzo, quindi insomma una scelta, come dicevamo all'inizio, non particolarmente originale, ma comunque dovuta, ed è un piacere augurare con due giorni di anticipo una buona festa delle donne ad Arianna Follis, che ci ha raggiunto al telefono. Buon pomeriggio Arianna e auguri in anticipo. Ciao. Buon pomeriggio, grazie mille. Grazie a te per averci raggiunto. Sempre al telefono con noi Elisa Calcamugi, inviata di Sky Sport, e qui in studio con noi Gianmario Bonzi, commentatore della Coppa del Mondo femminile per Eurosport. Allora Arianna, la prima domanda te la faccio io. Ma è vero che festeggi l'8 marzo dicendo addio alle corse? All'attività agonistica? Ce lo confermi? È vero, sì lo confermo, ma sono molto soddisfatta di quello che ho fatto, di quello che ho vinto e ricevuto dallo sport, quindi già inizio stagione avevo deciso che sarebbe stato l'ultimo anno, comunque sia andata ancora meglio avendo vinto una medaglia ai mondiali, quindi lascio proprio in piena serenità. No, perché il dubbio era venuto un pochino anche a tutti gli sportivi e gli appassionati, magari avevamo pensato Arianna poteva parlare sull'onda dell'amarezza per il quarto posto nella gara di team, visto che proprio nei minuti successivi tu avevi dato questo annuncio, invece una decisione che avevi già ponderato, che avevi già preso al di là del risultato. Sì. Assolutamente, anzi, il traguardo per la mia carriera era l'anno scorso l'Olimpiade di Vancouver. Dopo, insomma, è finita con due quarti posti, avevo un titolo mondiale da difendere, quindi mi sembrava giusto prendere parte a questi mondiali a Oslo. Così ho fatto, però così anche ero partita, faccio un anno e dopo basta. E dopo basta, poi farai la mamma? Chiaramente speriamo, siamo, ho un marito, sono sposata, quindi vorremmo provare ad avere dei bambini, dopo vedremo cosa ci riserverà il futuro. Senti Arianna, qui con noi appunto, dicevo, ci sono anche Elisa Calcamugi, inviata di Sky Sport, Gianmario Bonzi di Eurosport. Gianmario, hai delle curiosità, delle domande per Arianna che può stare con noi ancora qualche minuto? Ma in questi casi si chiede sempre perché lasciare quando sei al top. La mia è una speranza che tu non voglia mollare, visto che hai appena vinto una medaglia mondiale. Sì, ma perché è chiaro, adesso salta un perché si dice perché lasciare. Io comunque ho 33 anni, arrivare alle prossime Olimpiadi ci sarebbero ancora parecchi anni e non tutti gli anni sono uguali. Quest'anno è un anno molto particolare, forse la mia miglior stagione, perché anche in Coppa del Mondo non sono mai stata terza in classifica generale, quindi sì, è strano, però io davvero sono proprio convinta di farlo, perché ripeto, tutti gli anni non sono uguali e lasciare così nell'ombra sarebbe brutto per me, lasciare ad alto livello ancora meglio. Elisa Calcamugi, Io condivido la scelta che di lasciare ad alto livello, anche se mi dispiace molto perché magari l'alto livello poteva tenerlo ancora qualche anno. E volevo farle i complimenti per la medaglia del mondiale, perché è stata bellissima e soprattutto sofferta per noi a guardarla, e posso solo immaginare per lei a farle. Allora a questo punto, visto che ci sono ancora delle gare di Coppa del Mondo, e l'ha detto anche Arianna, è terza nella classifica generale, volevo chiederle come affronterà queste prossime gare e poi cosa ha pensato per lei in futuro, perché sicuramente il ruolo di mamma penso che sia una cosa bellissima, però mi piacerebbe anche che il talento di Arianna potesse essere magari in qualche modo trasmesso a dei ragazzi giovani o comunque non disperso così, senza che lei sia più coinvolta nel mondo degli sport invernali. Sì, dunque, appunto, il finale di Coppa non ho apposta partecipato alla 30 km dei mondiali per cercare di avere maggiori energie, per cercare di finire bene, insomma. Vorrei tenere questo podio finale in classifica generale, sono seconda anche nella classifica sprint, però lì mi sta difficilissimo vincere la coppetta perché ho la slovena Majdic a pochi punti dietro di me, ci sono due sprint classico dove lei parte favorita. Per quanto riguarda il mio futuro, penso proprio che intanto approderò nel mondo del lavoro come forestale e poi per quel che riguarda dare la mia esperienza dei ragazzini, purtroppo io devo partire già a prendere intanto un titolo da maestra di sci, quindi devo anche lì scalare un po' i gradini per riuscire dopo magari ad allenare qualche sci club, ma il futuro è lungo e vedremo. Arianna, c'è stata la generazione straordinaria della Belmondo di Centa, Paruzzi, poi c'è stata la generazione altrettanto felice, quella tua e quella di Marianna Longa. Dopo cosa c'è? Cioè, sarà difficile secondo te ricostruire un gruppo altrettanto vincente secondo te? Ma io non penso, il ricambio generazionale c'è sempre stato, si ha sempre tanta paura quando delle atlete forti insomma smettono, come ricordo già i miei tempi smetteva la Belmondo, chissà come andremo, invece c'è stata la Paruzzi e così via, quindi ci sarà ancora Marianna e poi sicuramente nella sua ombra cresceranno delle atlete, questo è sicuro e sono molto fiduciosa. Allora Arianna, in bocca al lupo per l'ultimo scampolo di stagione, ci auguriamo di ritrovarci presto magari per commentare insieme a te nuovi successi, nuovi trionfi con questo secondo posto in classifica da migliorare, chissà perché no, incrociamo le dita, ti salutiamo nel frattempo e rinnoviamo gli auguri per una felice festa delle donne, della mimosa, ti arrivi un bel mazzo di mimose virtuali. Grazie Arianna Follis, ospite di Radio 24, a presto. Grazie ad Arianna Follis, grazie ad Elisa Calcamuggi che è stata con noi anche questo pomeriggio. Allora Elisa, prossima settimana anche qui 30 secondi a disposizione per raccontarci cosa ci aspetta per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci maschile e femminile in una battuta. Beh, ci aspettano le gare tecniche con slalom gigante per le donne, dove speriamo di ritrovare una Manuela Mölg sul podio, magari insieme a Denise Carbo e a Federica Brignone, abbiamo delle belle carte da giocare, intanto vedremo come andrà avanti il duello fra Vonne e Risch. Per quello che riguarda gli uomini, vanno a Kitzbühel, in programma due discese e un super gigante, io spero tanto non solo di ritrovare Neurofer, ma che anche Werner Hell, chissà, magari piano piano riesca a ritrovarsi, visto che lì è dove ha vinto per la prima volta in carriera, è una pista che si adatta alle caratteristiche e ne ha bisogno per rincuorarsi un po' e affrontare la preparazione per la prossima stagione. Allora un saluto a Elisa Calcamuggio, un saluto e un ringraziamento anche a Gianmario Bonzi. Ricordiamo Gianmario, peraltro su internet hai un sito molto interessante che come dire consigliamo a tutti quelli che non seguono la trasmissione di Carlo Genta. Perché si chiama Sport Minore a chi? Esatto, perché c'è tutto tranne che il calcio, esatto. Fondamentalmente. Allora, tutti quelli che non sono interessati ad ascoltare Carlo Genta possono trovare Gianmario Bonzi su internet. sportminoreachi.it, se non sbaglio. Bene, in bocca al lupo, grazie mille, grazie per averci raggiunto, vienici a trovare presto. Grazie a Gianmario Bonzi. Grazie mille a tutti, buona serata. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, a Giorgio De Luca in redazione. Adesso i risultati del calcio con Carlo Genta. Noi ci ritroviamo con Effetto Neve tra 7 giorni. Buona settimana a tutti. Effetto neve. Effetto neve.